Crossover. Note senza confini. Un programma di e con Paolo Travagnin. Carissimi amici di Crossover, Note senza confini, uno strepitoso allegro dal vostro Paolo Travagnin. Quello che vi propongo è un ascolto di qualità, selezionato senza limiti né pregiudizi, tra tutto il materiale che proprio voi, costantemente e copiosamente, mi sottoponete. Crossover, perciò, è il programma fatto da voi e per voi, e di questo vi ringrazio di cuore. Seguitemi, durante la trasmissione vi darò tutti i contatti per entrare in contatto con questa grande famiglia di Crossover.

se parla solamente di smoke e stress. Eppure in te canzone o testa è sempre stessa. S'addormano in parole insieme a tutto quanto. Chi sta senza pensiero è pure se lamenta. Quanta insoddisfazione, quanta ipocrisia. Però se fanno in festa, se scende in mezza via, la gente si prepara a dar sta po' spumante. Ma invece muove canta chi stu piezze country. Sta guerra non fornisce, e che rivoluzione. Gittamme una bomba o levamme l'occasione. Se scontrano, se vattano, ma la fine è sempre stessa. Se non si fanno in guerra, non ci stanno più interessi. Poi villa se ne vene e fa cadere i palazzi. Guaiù, oggi per i sordi se fanno cose pazze. S'hanno imparato buona la canzone tutto quanto. E allora i muove canta chi stu piezze country. Chi stu piezze country. Chi stu piezze country. Chi stu piezze country. Chi stu piezze country. E allora muove dica che è stata cosa, dice un comandamento che non può arrubare, ma poi si arroba chi non le manca niente, chi non tiene niente, allora che da fa? E poi se vuoi sapere dove sta sta verità, in questo mondo di maschere non si può trovare. Il trucco sta vita è sempre più pesante, ma è meglio che la canta chi stu piezze country. Le proposte musicali che state ascoltando sono solo alcune di quelle giunte in redazione. Per suggerimenti, commenti, giudizi vi aspetto a music@vatiradio.va oppure 06 69 88 3792 oppure al numero verde 800 208 802. Crossover ti dà voce.

Anche per oggi Paolo Travagnina al microfono e Marco Di Battista in regia alla console vi salutano e vi ringraziano della vostra cortese compagnia. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e per avere informazioni sugli artisti che avete ascoltato vi rimando ai nostri contatti. music@vattiradio.va per quanto riguarda il contatto via mail e per quanto riguarda invece il contatto telefonico un numero verde 800 208 802 oppure 06 69 88 3792. Un meraviglioso Aleger.